Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, intanto oggi, essendo venerdì, ahimè, è anche il giorno della poco invidiabile classifica di Focus Economia, la top 5 degli sprechi, malfunzionamenti della pubblica amministrazione, malversazioni, utilizzo di denaro pubblico. E poi, come sempre, avremo anche in contrapposizione, volutamente, l'esperienza e il racconto di chi invece ha fatto partire un'attività durante questi anni di crisi. Oggi andremo al sud di nuovo, a dimostrazione che dal sud arrivano anche spesso brutte notizie sui cattivi comportamenti della pubblica amministrazione, ma arrivano anche dei casi virtuosi. E poi i dati di oggi diffusi dall'INPS, e ascolteremo alcuni passaggi della Lectio Magistralis che ha tenuto oggi a Milano, poco fa è terminato il premio Nobel all'economia Amartya Sen, nell'ambito, è il primo degli incontri organizzati da Edison Open for Expo. La Lectio Magistralis riguardava la fame e la sicurezza alimentare, come realizzare una sostenibilità economica in tempi di crisi. Ascolteremo alcuni di questi passaggi e parleremo anche della settimana che si sta chiudendo, nel senso che è stata la settimana in cui l'Istat ci ha detto che siamo tornati a crescere, siamo usciti tecnicamente dalla recessione grazie alla crescita del valore aggiunto nei primi 3 mesi dell'anno di industria e agricoltura, stazionari invece i servizi. È una crescita modesta, più 0,3%, ma è la crescita, come abbiamo raccontato l'altro ieri, più alta da 4 anni a questa parte. Dice appunto il Ministero che a questo punto siamo vicini e ha portata di mano l'obiettivo di una crescita dello 0,7%, ma è anche la settimana in cui l'INPS ci ha diffuso i dati sui boom di contratti di lavoro a tempo indeterminato, senza che però questo ci permetta di dire quanti nuovi contratti sono stati fatti. Visto che parlavamo dell'INPS, vale la pena ricordare anche quanto fotografa oggi l'INPS, lo faremo fra un attimo, ossia le pensioni medie, anzi facciamolo subito. Perché? Perché oggi, nel corso dell'operazione trasparenza, abbiamo scoperto che le pensioni erogate dall'INPS ai dipendenti pubblici ammontano a 65 miliardi di euro, in aumento dello 0,75%, vengono erogate a 2 milioni e 800 mila assegni. Sono l'importo medio delle pensioni dei dipendenti pubblici è aumentato in 5 anni di circa 100 euro. E fin qua, diciamo, sono tutte notizie di carattere statistico. La pensione media nei dipendenti pubblici è di 1772 euro al mese, e qui iniziano le cose un po' più singolari, ossia questo è il 72% in più come pensione media rispetto a quelle medie dei lavoratori dipendenti del settore privato, 1000 euro. Sulle pensioni liquidate nel 2015 addirittura la differenza aumenta, cioè sono in media di 1870 euro per i dipendenti, per i pensionati pubblici, contro i 1000 euro per i pensionati privati. E poi si va dentro, emerge un dato che tutte le agenzie hanno ripreso, il caso degli autoferrotranvieri. Allora, senza voler dire nulla, ma il 96%, lo comunica l'INPS, il 96% delle pensioni degli autoferrotranvieri è superiore a quanto si avrebbe avuto sulla base del calcolo contributivo, quindi in base ai contributi versati. Il fondo trasporti, che è stato soppresso nel 96, avrà un deficit, che era il fondo pensionistico degli autoferrotranvieri, di quasi 1 miliardo di euro, 918 milioni, e ha un debito di quasi 20 miliardi di euro. Questo perché? Perché in molti casi appunto si va in pensione col retributivo e non col contributivo. Ancora la buona notizia di oggi riguarda invece le domande di mutuo, perché a dimostrare che c'è di nuovo un risveglio dell'intero settore anche immobiliare, più 71%, quasi 72% ad aprile, le domande di mutuo rispetto a un anno prima. Siamo a dei volumi di mutui ormai vicini a quelli di 5 anni fa, cioè precedenti il crollo che si era verificato a partire da metà del 2011. La borsa, adesso la commentiamo, prima il numero per i vostri sms 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, la borsa negativa a Milano, ma devo dire meno di altre borse europee, va verso una chiusura con un calo dello 0,20%, Parigi meno 0,70%, Francoforte meno 1%, Londra meno 0,30%, l'America è invariata, bene Autogrill, ne parleremo dopo le voci circolate anche ieri, più 3%, A2A più 3%, Buzzi Unicem più 2,20%, Azimut più 2%, Prismian più 1,5%. E poi Intesa San Paolo più 1%, Iux più 1 come Terna, Snam più 0,90 come Ferragamo. Pronto opposto invece Monte dei Paschi, perde il 3,35%, Saipem il 2,60%, Tenaris il 2,5%, Eni meno 1,5%, Campari meno 1,40%, Enel meno 1,30%, ST Microelectronics meno 1,20%, Euro sempre in rafforzamento a 1,14%. E 27 nei confronti del dollaro. E tra poco, o meglio, sappiamo solo che dovrebbe arrivare a mercati chiusi, arriverà anche il voto di Standard & Poor's, una delle tre agenzie di rating che danno i voti ai debiti dei paesi, oltre che dei privati, sul debito italiano. Attualmente noi abbiamo una BBB, una triple B meno. Vedremo che cosa arriverà. Quanto al fronte pensioni, invece, oggi il premier Matteo Renzi ha detto: restituiremo una parte dei soldi. Il tema è l'adeguamento all'inflazione deciso dalla Corte Costituzionale, che ha bocciato la riforma Fornero del governo Monti. Stiamo studiando come fare a rispettare la sentenza e contemporaneamente le esigenze di bilancio, ha continuato Renzi, sapendo che questi soldi purtroppo non andranno ai pensionati che prendono 700 euro al mese. La Corte Costituzionale, ha continuato il Premier, non ha detto che non si può fare il blocco delle pensioni, ma che in quel modo non andava bene. C'è da ripensare quel modello di organizzazione delle pensioni. Lo faremo nel corso dei prossimi giorni, nei prossimi mesi. Da quello che si è capito, lunedì comunque il Consiglio dei Ministri dovrà far sapere qualcosa. Ieri era circolata anche l'ipotesi di un rinvio della decisione sui rimborsi, e slitterebbe a dopo le elezioni regionali del prossimo 31 maggio. Era trapelata però la contrarietà del ministro dell'economia Padoan, che avrebbe preferito e preferirebbe definire subito i tempi e le modalità dei rimborsi. Si va comunque, salvo sorprese, verso un'ipotesi dei mini rimborsi per fasci di reddito che limitino l'impatto totale, che teoricamente può arrivare fino a 12 miliardi di euro, a non più di 3 miliardi di euro. E qui il rischio che scattino altri rimborsi retroattivi arriva anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale sulla Robin Tax, come ricorda nei 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, che vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, il vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Arioli. Per curare il tuo giardino, scegli gli attrezzi di qualità stile Viking. Scopri le promozioni e i rivenditori aderenti su stil.it e amailtuoverde.it. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alberto Orioli. C'è un'altra mina nei conti pubblici che finora è passata sotto silenzio e deriva ancora una volta da una sentenza della Corte Costituzionale. Non ha l'impatto monstro di quella sulle pensioni, ma rischia comunque di creare un problema sui conti pubblici. Stiamo parlando della sentenza che aveva dato lo stop alla cosiddetta Robin Tax, cioè l'aumento dell'IRES per le aziende energetiche, che dal 2011 al 2013 ha prodotto incassi per 3,8 miliardi. La Corte ha bloccato questa supertassa per il futuro, senza inficiare però le scelte del passato. Ma la Commissione Tributaria di Reggio Emilia rischia di aver creato un precedente rischioso. I giudici tributari reggiani infatti hanno riconosciuto l'illegittimità della Robin Tax anche per il passato e hanno imposto un rimborso di 424 mila euro alla società che aveva presentato il ricorso. La Commissione Tributaria in particolare eccepisce che lo stop della Corte vale dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza, ma interessa quindi anche tutti i procedimenti pendenti. Va detto naturalmente che si tratta di un primo grado e di una sola provincia, ma rischia di avere creato un precedente che può estendersi ad altre città e regioni. Nel frattempo i conti pubblici già tremano per i 3 miliardi e mezzo che il governo cerca di rimborsare per il mancato aggiornamento delle pensioni. E poi soffriranno naturalmente per la mancanza della Robin Tax per il futuro, che nel 2015-2016 valeva rispettivamente 7-800 milioni. Ma certo, se a questi ammanchi se ne aggiungessero altri per il povero ministro Padoan sarebbero guai, ma forse bisogna anche prendere atto che non è scandaloso pensare che certi diritti acquisiti molto parziali non hanno lo stesso rango dei diritti di tutti a salvare i conti dello Stato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, adesso arriviamo alla classifica della settimana e poi vi ricordo che stiamo per lanciare la classifica della classifica, la top 5 della top 5. Ultima notizia di oggi invece in realtà è una coda di quanto già raccontato ieri, nel senso che ieri nella notte italiana, durante un intervento al Fondo Monetario Internazionale a Washington, quando si è poi saputo anche delle dimissioni di Blanchard, il capo economista, Mario Draghi è tornato sul tema dell'effetto del quantitative easing su consumi e investimenti. Ha detto che occorre che queste misure abbiano altrettanto effetto come hanno avuto sui tassi di interesse anche su investimenti, consumi e inflazione, e che l'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea e delle banche centrali nazionali dell'area euro resterà in piedi fino a quando necessario e presto per dichiarare vittoria. We will implement in full our purchase program as announced. Come annunciato, daremo piena attuazione al programma di acquisto di titoli che continuerà in ogni caso finché non rileveremo un costante adeguamento del livello di inflazione desiderato. Dopo 7 anni di crisi debilitanti per il sistema economico, famiglie e imprese sono molto restie ad assumersi rischi economici. Per questo motivo è necessario attendere ancor prima di valutare il successo le misure adottate. Per questo il quantitative easing rimarrà in piedi fino a quando sarà necessario per raggiungere in modo duraturo gli obiettivi che ci siamo prefissati. La classifica della settimana. Meno male che oggi l'imprenditore che usiamo come modello di chi non accetta una certa Italia e si è rimboccato le maniche è un imprenditore del sud. Perché lo dico? Perché noi non abbiamo una preferenza geografica, in base a quello che troviamo raccontiamo. Oggi c'è una prevalenza quasi netta invece di casi che riguardano sostanzialmente due regioni, Sicilia e Puglia soprattutto. Partiamo dal quinto posto, e qui c'è una cosa strana che sta capitando, perché le elezioni regionali alle porte fanno accadere strane cose sia diciamo in Sicilia che in Puglia. Allora partiamo dalla Puglia, nel caso specifico a Lecce, perché una settimana fa è stato inaugurato il polo di nanotecnologie del CNR di Lecce, un polo fondamentale. Le nanotecnologie sono il futuro, abbiamo spesso raccontato che in quel settore, nel biomedicale, si gioca la sfida del futuro. Una struttura di oltre 12.000 metri quadrati totalmente vuota. Giusto, no? Per entrare basta spingere una delle tante porte a vetri che aprono sull'androne del pian terreno. Non c'è custode, non c'è un usciere. Chiunque potrebbe fregarsi e rubare quadri elettrici, centraline e i tanto ricercati cavi di rame. Tant'è che è già successo, la ditta appaltatrice ha già dovuto rifare i cablaggi. E la coordinatrice del settore nanodispositivi materiali, Adrianna Passaseo, ha detto: tutto è avvenuto così in fretta che non abbiamo avuto nemmeno il tempo per fare una gara per il servizio di guardiania. Ora dici, come mai devi aprire così in fretta 12.000 metri quadrati vuoti, ma neanche hai il tempo di metterci un guardiano, così ti ciulano, ti rubano tutto quello che c'è dentro? Beh, non si capisce. Anche i ricercatori hanno storto il naso, apprendendo che il battesimo ufficiale della loro nuova casa, dopo anni di attesa, era stato fissato a ridosso delle elezioni regionali di fine mese. Ma sono coincidenze, ragazzi, mica così. Uno, quando scegli di aprire 12.000 metri quadri vuoti sotto elezioni regionali, allora adesso sperano che la risonanza mediatica possa scuotere le alte sfere della politica anche regionale e facilitare la chiusura di alcuni passaggi burocratici da cui dipende il funzionamento del centro leccese, perché ad oggi sono ancora al lavoro le squadre di operai e le apparecchiature scientifiche su 12.000 metri quadri occupano, pensate voi, il 5% dello spazio. E cosa c'è? È vuoto il resto, no? Ci vorranno ancora dai 6 ai 12 mesi. E vabbè. Da Lecce andiamo a Trapani, perché questa è una puntata in cui possiamo raccontare anche, come si dice sempre, la cultura, il turismo sono il nostro petrolio, il nostro oro nero, il nostro oro. Sì, bisogna saperlo estrarre e trovarlo l'oro, e vale soprattutto per il nostro Mezzogiorno. Io vorrei capire che cosa ne sarà dei tre custodi e anche della direttrice del Museo Archeologico Baglio Anselmi di Marsala. Perché è successo? Vedete, il caso non è tanto grave da un punto di vista economico, è grave per la mentalità, perché sei a Marsala, c'è un museo, già raccontammo del satiro, se non ricordo male, sempre a quelle parti, il museo che era impossibile visitare, a Mazara del Vallo in quel caso. In questo caso sei a Marsala. Arrivano due pullman di turisti inglesi e 130 soci dell'Associazione Sicilia Antica. Avevano avvisato del loro arrivo, perché in Italia, in certe parti, devi anche avvisare quando vai a visitare un museo. Perché erano stati avvertiti che per mancanza di personale si poteva visitare solo la metà del museo, ovvero la sala dove era conservata la nave punica. Dicono, vabbè, visiteremo la sala della nave punica. Arrivano, niente. Ci sono tre custodi, no? Che dicono no, non potete visitare neanche metà del museo, perché uno dei quali si atteggiava per la denuncia di Sicilia Antica al leader del gruppo e si vantava di rappresentare il sindacato, tira fuori una disposizione di servizi in cui si precisa che il museo è chiuso di domenica. Vabbè, l'associazione risponde che aveva comunicato l'arrivo alla direttrice e chiede di contattarla telefonicamente. La direttrice si dimostra disponibile a consentire l'accesso, ma il custode afferma che se veramente voleva farvi entrare doveva venire lei personalmente. E poi la direttrice alla fine ha detto fate voi. Insomma, il custode comunica che non apriranno. C'è un altro regolamento che spunta fuori a quel punto, che prevede che con tre persone non si possa aprire il museo. Ma che regolamento è? Per una sala? Morale della favola: in tre non possono aprire nemmeno la sala di un museo adiacente all'ingresso. Ora io vorrei capire, insomma, che cosa qualcuno prenderà provvedimenti, perché sono tre custodi. Allora, se non riescono ad aprire nemmeno una sala la domenica, nonostante la direttrice, devono andare a casa, non me ne frega nulla, assumetene altre tre, cambiate il contratto, non me ne frega nulla delle loro famiglie, dei figli. Se tu hai tre custodi che si comportano così, mi dispiace, devono andare a casa. Perché sennò ha ragione Sicilia Antica a scrivere in un comunicato: si permette a taluni soggetti di spadroneggiare nei nostri musei, nelle nostre aree archeologiche, procurando danni nell'erario anche in un momento di particolare difficoltà economica. Fino a quando dovremo sopportare l'arroganza di queste persone? Finché non le licenziano, aggiungo io. Oh, e restiamo, mi dispiace, restiamo in Sicilia, perché qui c'è la vicenda che si becca al terzo posto, che siamo sempre nel tema di turismo, ma mi fa ancora più arrabbiare. Ossia, siamo a Sciacca, per chi conosce la Sicilia e chi vi parla l'ha girata quasi tutta, è una delle spiagge, delle parti più belle della Sicilia. Tra l'altro, alle terme di Sciacca, dove accanto alle terme l'amministrazione costruì un grand hotel a 4 stelle, 3 piani con suite, centro benessere, palestra, ristorante e quant'altro. Si decide di regionalizzare le terme e farle gestire da una società, l'azienda autonoma delle terme di Sciacca. Da allora in poi è un susseguirsi di scelte sbagliate, bilanci sempre più in rosso e tentativi falliti di privatizzazione. Nel 99 si prevede che il centro termale sia controllato da una società per azioni, Terme di Sciacca SPA, che poi essendo una SPA ci sta pure bene, ma concepiscono una SPA intesa come società per azioni senza capitale sociale. Beh, questo è bellissimo, cioè, ma neanche un euro. Che cosa vuoi che gestisca una società che non ha capitale sociale? Ma allora le terme diventano un problema, perché quella che è un'opportunità in altri mondi, in questi mondi è un problema. Cosa facciamo di ste terme di Sciacca? Nominano un commissario straordinario in previsione di un bando per la privatizzazione. Il bando arriva nel 2013, non viene pubblicizzato, o meglio sì, sulla Gazzetta Ufficiale Siciliana, la gara va deserta. Nel frattempo i debiti lievitano fino agli attuali 8 milioni di euro. C'è il riepilogo della vicenda. C'è un posto incredibile quanto a bellezza, delle terme naturali, un albergo a 4 stelle lussuosissimo, adesso vi spiegherò anche perché. Prenotazioni che ogni volta che l'albergo è aperto praticamente era pieno di turisti, 2 settimane d'agosto arrivavano a costare 1300 euro a persona. Il panorama spettacolare, l'hotel di lusso, la piscina termale alimentata con acqua sulfurea, tutte le cure convenzionate con il sistema sanitario nazionale, ma non riescono a farlo ripartire questo albergo, e infatti ha accumulato 8 milioni di euro di perdite la società Terme di Sciacca SBA. E qui arriviamo alla parte, diciamo, che verrebbe da ridere se non da piangere. Il 30 aprile c'è scritto sui muri della piscina termale dell'albergo che il 1 maggio riaprirà. Peccato che l'acqua è verde per la sporcizia, i giardini incolti, l'hotel a 4 stelle che ha marmi, grandi vetrate, divani in pelle, tappeti, piante ornamentali, un pianoforte a coda, c'è la reception che espone le guide turistiche, è deserto. Gli uffici amministrativi sono aperti, c'è un registro pronto a prendere prenotazioni, che comunque la pagina che sono pari a zero, i telefoni sono staccati, i computer sono staccati. Nella suite al primo piano i letti sono ancora disfatti, il bagno, la doccia con l'idromassaggio, l'impianto stereo, quello che volete, ma non ci si può andare. I 100 lavoratori che hanno impiegati nelle terme di Sciacca, metà sono stati assorbiti negli uffici regionali siciliani. Con quale competenza? Nessuna, dice il sindaco di Sciacca Fabrizio Di Paola, anche perché se eri indipendente delle terme di Sciacca andrà a lavorare in regione, boh, non so che competenze tu abbia. Restano in mezzo a una strada tutti quelli che avevano chiesto di lavorare alle terme, gli stagionali, qui parliamo di dipendenti e stagionali, in tutto una 50 di persone, più l'indotto. Attualmente si stanno studiando proposte per affidare l'hotel a una cordata di imprenditori privati e le terme all'azienda sanitaria locale. E intanto la stagione turistica è iniziata e all'ufficio del turismo della regione Sicilia fanno sapere che già da marzo stavano ricevendo decine di telefonate per persone che volevano prenotarsi alle terme di Sciacca. Inizialmente rispondevamo di richiamare dopo qualche giorno perché c'erano dei problemi tecnici, ora diciamo direttamente che l'impianto è chiuso. E beh, almeno sei più onesto. Concludono in maniera laconica i dipendenti del turismo della regione Sicilia: se non vandalizzano ogni cosa, speriamo apra l'anno prossimo. Io vorrei sapere com'è possibile buttare nel cesso 8 milioni di euro, cancellare tutte le prenotazioni, quindi non avere un servizio per i turisti, continuare a perdere soldi con una struttura, perché poi dice sempre mancano le infrastrutture. No, qua le infrastrutture ci sono. C'è un albergo fatto con tutti i crismi, che era sempre pieno, che registrava tutto esaurito, che ha queste terme fantastiche accanto, in una posizione invidiabile, panoramica, al mare della Sicilia, Sciacca e quant'altro, che ha perfino la piscina, quando la puliscono, con l'acqua sulfurea. Che cosa occorre in più? Occorre che i siciliani non abbiano quella classe dirigente. Che parete, adesso, perché non è possibile. Ha altre scuse, cosa manca? Hanno tutto. E 8 milioni li perdiamo così. Va bene, andiamo al secondo posto e poi vi lascio dopo il meteo alla prima in classifica. Oggi io sono sicuro che Crocetta e Ardizzone, rispettivamente governatore e presidente dell'Assemblea regionale siciliana, diranno che ce l'abbiamo con con loro, ma è una coincidenza perché devo purtroppo restare in Sicilia. Si è di nuovo bloccato il disegno di legge che equiparava la Sicilia al resto d'Italia. So già la battuta, bastasse un disegno di legge. No, era importante e riguardava i compensi degli amministratori degli enti locali siciliani. Applicando la norma che equipara i compensi degli amministratori degli enti locali siciliani al resto d'Italia, salterebbero 1.400 poltrone di assessori e consiglieri comunali. Diminuirebbero i compensi anche per i sindaci. Sapete quant'è il risparmio stimato per la regione? 50 milioni di euro. Se vogliamo sommarci anche gli 8 di Sciacca, facciamo che siamo già a 60 milioni solo in questa puntata per la regione Sicilia. C'è il tecnico che guarda il cielo, capito? La rubrica è questa, però. Allora, doveva essere approvato insieme alla finanziaria, poi stralciato in un disegno di legge a parte. Che però avevano assicurato i deputati della maggioranza e lo stesso presidente dell'Assemblea regionale siciliana ai nostri microfoni giurò che la cosa era fatta. Ardizzone, io la faccio risentire quello che lei ha detto, cos'era, 4 mesi fa quando litigammo, forse di più, 6 mesi fa, e tutto doveva essere incardinato in aula alla ripresa dei lavori dopo il varo dei documenti economici. È arrivato in aula il disegno di legge e subito l'hanno impallinato. È accantonato. Lo denuncia il deputato del Movimento 5 Stelle, Stefano Zito, che dice: proprio perché ci sono le elezioni, ecco che tornano le elezioni, e non conviene a questi deputati approvare la norma perché i consiglieri comunali sono portatori di voti. Zito, mentre parlava, stupore interrotto dal presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Ardizzone: non accetto queste critiche, ci sono consiglieri comunali che guadagnano appena 200 euro. Ho capito. Ma se il risparmio di 50 milioni di euro complessivi, fatelo. E comunque, intanto, attenzione, la norma che dovrebbe ridurre a livello del resto d'Italia compensi degli amministratori degli enti locali, l'avete di nuovo bloccata. Meteo, pubblicità e poi il numero uno della classifica. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Focus Economia. Oh, di nuovo in diretta con la classifica della settimana di Focus Economia, la top 5 degli sprechi. Al primo posto, anche oggi tocca dare una ex aequo. 349-238-6666 per i vostri sms. E la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, ex aequo, da nord a sud l'Italia dicono che sia troppo lunga, in realtà delle volte è troppo corta. Allora, perché lo dico? Perché da un lato abbiamo l'indagine di 5 ex consiglieri comunali di Trani, dei miti, perché sono indagati, ma seriamente indagati, l'indagine presa dai carabinieri. Si tratta di... ha chiuso l'indagine, tra l'altro, la Procura della Repubblica di Trani, e ha notificato l'avviso di conclusione agli ex consiglieri Francesco De Noia, PDL, Andrea Ferri, eletto nel PDL poi indipendente, Bartolo Maiullari, UDC, Domenico Cognetti, PD, Nicola Damascelli, Movimento Schittulli, tutti accusati di falso ideologico pluriaggravato e continuato anche per induzione e truffa aggravata ai danni dello Stato, anche per induzione, perché sono anche accusati di aver indotto in errore l'impiegata che poi doveva fare la liquidazione delle somme. Cosa facevano sti cinque? Erano componenti della quinta commissione consigliere del comune, risultavano presenti dalla mattina alle 9 fino all'ora di pranzo e poi anche nel pomeriggio. Danno all'erario 35.000 euro, nessuno di questi era mai stato fisicamente lì. Come hanno fatto i carabinieri? Hanno visto i tabulati telefonici, è emerso che i consiglieri si trovavano in posti diversi dal palazzo del comune di Trani, incassavano il gettone sempre comunque, e anche quando arrivavano a Trani, che ormai il palazzo di città e le commissioni erano chiuse. Praticamente da novembre 2012, cioè in un anno e mezzo, hanno truffato per 33.000 euro. La cosa pazzesca è che De Noia deve rispondere anche di simulata infermità pluriaggravata, disobbedienza aggravata e omessa presentazione in servizio, ricettazione di certificato medico falso in relazione alle sue assenze al posto di lavoro. Praticamente, addirittura il GIP del Tribunale Militare di Napoli impose il divieto di dimora a Trani. E da lì sono partite le indagini. Questo aveva il divieto di dimora, ma risultava presente nel consiglio. Un mito, guarda, De Noia. Ma io dico, questo rientra nei casi previsti? No, chiedo. Perché, insomma, oltre a tutto, oltre a falso ideologico pluriaggravato e continuato e anche per induzione, truffa aggravata di uno Stato, De Noia ha pure, appunto, disobbedienza aggravata, omessa presentazione di servizio, ricettazione di certificato medico falso e simulata infermità pluriaggravata. Ma non so. Ma ex aequo con Torino, perché la Procura della Corte dei Conti di Torino ha chiesto risarcimenti di 25.000 euro ad Andrea Stara, ex consigliere del gruppo Insieme per Bresso, e a Maurizio Lupi, è un caso di omonimia, fermi tutti, ex consigliere regionale di Verdi Verdi, meno male che era Verde Verde, 74.000 euro a Stara, coinvolti nel caso di rimborsopoli. A Stara, in realtà ha già risarcito 57.000 euro alla regione, ma gli vengono contestati altri 74.000 euro di spese per scopi personali, per campagne elettorali locali, ristoranti, farmaci, multe, cioè pagava con questi soldi i ristoranti, i farmaci, le multe, acquistava materiale per le ferramente, bricolage e anche un tosa erba. Oh, il tosa erba ci mancava, abbiamo visto vibratori, tampax, di tutto, ma il tosa erba ancora no. E come farselo mancare il tosa erba? Importo complessivo 82.000 euro. Ma il procuratore della Corte dei Conti di Torino fa un attacco durissimo a Stara. Perché? Perché lui ha rimborsato il 30% in più come danno all'immagine, così la regione non si sarebbe costituita parte civile contro di lui. Ok? Poi però cosa ha fatto il furbetto? Ha chiesto alla Corte dei Conti di sottrarre quel 30%. Ma come, l'hai dato per evitare in questo modo che la Corte, che la regione si costituisse parte civile, in modo li vuoi indietro? Sono 17.000 euro. Sostenendo che in assenza di una sentenza di condanna, il processo non è ancora concluso, non esiste il presupposto del danno d'immagine. Allora che hai dati a fare? Allora potevi avere la regione come parte civile contro di te. A Lupi invece è contestata la consulenza per la figlia Sara, che per 3 anni ha ricevuto dal Consiglio regionale stipendi fino a 74.000 euro, ma che per l'intera durata della collaborazione era impegnata tra Milano e Parigi in altre attività professionali. Sara Lupi, ma che facevi? Tra Milano e Parigi, altri lavori, ma intanto sei costata 74.000 euro. Però voglio chiudere in bellezza, infatti l'applauso non l'abbiamo ancora dato, perché invece siamo molto contenti di come sta andando lo stato di salute dei dipendenti dell'azienda municipalizzata dei trasporti di Bari. L'AMTAB è crollato del 50% il tasso di assenteismo e le malattie per un giorno. Come mai? Sarà un caso. A fine marzo è stato siglato un accordo dall'azienda di trasporto e dai sindacati che penalizza pesantemente chi fa la malattia breve di un giorno e prevede diverse decurtazioni in busta paga. Il risultato qual è? Se volete ve lo racconto, sono 3 decurtazioni fissate al 17, 34 e 50% se uno accumula un determinato numero di assenze per malattia breve, cioè quella di un giorno, ok? Superato un certo numero. Allora, lo scorso 14 febbraio, giorno di San Valentino, all'azienda municipalizzata dei trasporti di Bari, prima di questo accordo, risultano in malattia 42 autisti per un giorno. Era San Valentino. Malattia d'amore, malati di amore. Lo scorso weekend, che c'era la festa patronale di San Nicola, io so che sembra ridicolo, ma dobbiamo ragionare così in sto paese, festa molto importante a Bari, invece solo 7 erano in malattia. Quindi noi siamo molto contenti, l'applauso va allo stato di salute degli autisti e dei dipendenti dell'azienda municipalizzata dei trasporti di Bari. Lo so che molti consiglieri ci stanno scrivendo da vari comuni del centro nord Italia, soprattutto prendono 10 euro a consiglio, 150 euro massimo al mese, è vero, ma infatti noi l'abbiamo detto più volte, attenzione, ci sono migliaia di consiglieri comunali che hanno gettoni assolutamente modesti, poi ci sono i casi che raccontiamo e soprattutto questa assemblea regionale siciliana, ma la vogliamo levare l'autonomia alla Sicilia e per me a tutte le regioni in generale. Leviamo le autonomie, basta, basta, no? Tanto lo so che si arrabbieranno gli altoatesini, altoatesini, non sudtirolesi, altoatesini, i trentini, i valdostani, i friulani, ma non se ne può più. Restiamo però, restiamo al sud, dottor, o anzi avvocato Angelo Petrosillo, buonasera. Buonasera a voi. Ne ha sentite alcune di queste? Ah sì, le ho sentite, come devo, come dire, non aiuta. No, vabbè, ma lei rappresenta il nostro caso virtuoso, perché ha fondato nel 2009, quindi in piena crisi scoppiata, assieme a un suo collega, non collega, perché un ingegnere, Luciano Belviso, una società a Monopoli, che è in provincia di Bari, per chi non lo sapesse, che si chiama Black Shape. E io voglio che lei ci racconti la nostra storia, perché vogliamo anche dare qualche messaggio virtuoso, perché sennò i ragazzi che ascoltano e comunque in generale gli ascoltatori pensano che l'Italia sia tutta così. Noi denunciamo la parte più schifosa, ragazzi, poi raccontiamo anche la parte virtuosa ogni tanto, se ce la facciamo, dopo il traffico. Focus Economia. Are you with me? Are you with me? Allora, dunque, no, vedo che alcuni ascoltatori dicono che in realtà quello che è successo con gli autisti della municipalità di Bari è dovuto al miracolo di San Nicola. È vero, infatti noi abbiamo solo fatto notare la coincidenza tra il provvedimento che penalizzava molto le malattie per un giorno e il numero di assenze. A chi mi dice studia la storia, sono su tirolesi, non altoatesini, vi prego, questo è un programma di economia, ma allora come definiamo gli istriani, i dalmati e tutti i profughi italiani? No, alto Adige, ho detto. E comunque, ripeto, il punto, mi scrive qualcun altro, guardi che a Bolzano i soldi li spendiamo bene. Avete ragione, infatti nessuno si è permesso di equiparare l'amministrazione di Bolzano, di Trento, con altre regioni a statuto autonomo. Ho solo detto che mi sembrano un po' anacronistiche e antistoriche, anche perché sono concorrenza interna alle regioni limitrofe. Poi giustamente la Lombardia e Veneto qualcosa da dire ce l'hanno quando tu hai a distanza di 20 km. Ma comunque è un tema che non voglio affrontare adesso. Petrosillo, che cosa ha creato lei nel 2009? Ma io diciamo poco, nel senso che come Luciano poco? È l'ingegnere aeronautico che poi è stato la mente di tutto. Niente, noi ci siamo conosciuti dalle scuole superiori, dal liceo, poi nel 2009 volevamo tornare in Puglia, abbiamo approfittato di un bando che dava 25.000 euro alle aziende innovative, alle start-up fatte da giovani, siamo tornati in Puglia, stavamo tutti e due all'estero e poi a un certo punto siamo andati avanti col progetto, siamo cresciuti, abbiamo vinto un altro bando, solo che per ottenere i soldi di questo bando ci voleva una fideiussione bancaria, le banche non ce la davano. Allora abbiamo incontrato un signore che si chiama Vito. E perché non ve la davano le banche questa fideiussione? È perché per fare gli aeroplani più innovativi della loro categoria in Puglia, nell'epicentro geografico della crisi economica mondiale, a 2,26 anni, i soldi le banche non te li danno, non te li danno in generale. Vedi, questo maggior ragione. Abbiamo appena fatto così una puntata sugli errori che fanno gli imprenditori quando vanno in banca, e quindi non diamo sempre torto alle banche. Però questi sono i casi che mi fanno girare profondamente le pale eoliche, perché voglio dire, ci sono 2,26 anni, tra l'altro magari non molti lo sanno, però il Dreamliner 787 della Boeing è tutto in fibra ottica e viene realizzato a grattaglie, come si chiama? Grottaglie, un giocatore di calcio, a grottaglie, ok, per cui c'è già un polo di eccellenza lì. Due imprenditori, un ingegnere e un avvocato, vanno in banca e dicono: vorremmo realizzare, se ho ben capito, aerei ultraleggeri da turismo, tutti in fibra. Sì, noi siamo partiti con gli ultraleggeri, adesso siamo presenti in 27 e vi hanno detto no perché non ci fidiamo o perché non sanno valutare Che non sanno valutare, credo. Però, insomma, comunque, chi ve li ha dati i soldi? Ce li ha dati un signore che ha un fondo di investimento che investe in PMI e in imprese grandi, medie, piccole, insomma ad alto contenuto tecnologico, che si chiama Vito Pertosa. Il fondo si chiama Angelo Investments. Lui già aveva aziende nell'ambito del ferroviario, dei treni di misura e dei satelliti, dei piccoli satelliti. Pensi che a Mola di Bari c'è un'azienda che si chiama Sitael, che fa parte del nostro gruppo, che è la più grande azienda italiana, capitale italiano di spazio. Siamo partiti nel 2009 e adesso siamo presenti in 27 paesi del mondo, abbiamo 500 dipendenti. Ma sai che io sono così contento per quella... Chi è che non vi ha dato... Quale banca era quella del finanziamento? Beh, tante, ne abbiamo girate più di 30. Ecco, io sono così, avete perso dei soldi, resti con noi, perché tra l'altro voi siete diventati la seconda realtà nel distretto appunto della fibra che raccontavo prima di Grottaglie e quinta a livello nazionale. Però i soldi un po' ve ne ha dati la Regione Puglia, ecco perché ogni tanto c'è qualche buona notizia. Resti con noi dopo il GR24. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 20 al 22 maggio. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, stavamo concludendo dopo la poco invidiabile classifica della settimana degli sprechi, invece col caso Virtuoso e quindi i due soci che hanno fondato la Black Shape a Monopoli. Ho detto una prima, chiedo scusa per il refuso, ho detto in fibra ottica, chiaramente lì c'è un centro importante che realizza le fusoliere, per esempio del Boeing 787 Dreamliner in fibra di carbonio. E voi avete deciso di lanciare una produzione di aerei ultraleggeri da turismo interamente realizzati in fibra di carbonio. Ci ha appena raccontato Petrosillo che nessuna delle 30 banche a cui avete proposto il progetto vi ha dato una lira. I soldi invece li avete avuti da un privato, ma anche dalla Regione Puglia. Così ogni tanto gli enti locali li citiamo in maniera virtuosa. Prego, Petrosillo. Sì, la Regione ci ha sostenuto sin dall'inizio, prima con questo lending da 25.000 euro, poi c'era questo bando da 350.000 euro, un bando europeo, ne siamo arrivati primi, però non riuscivamo a controgarantire. Allora Vito Pertosa, il fondo Angelo Investment, ci ha finanziati, è entrato nel capitale, siamo diventati parte del gruppo Angelo Investment e quindi diciamo, adesso abbiamo un'azienda che esporta, non facciamo più solo gli ultraleggeri, facciamo aeroplani certificati diciamo da diporto ma anche da addestramento primario. Quando è che avete immesso il primo aeromobile sul mercato? Il primo ha volato nel maggio del 2011. Ok. Il primo, proprio il first article, adesso ne abbiamo consegnati più di 40, abbiamo un backlog importante, proprio adesso stavo facendo la valutazione delle opportunità commerciali, in totale nel mondo su 4 continenti tra addestramento privato e militare e piloti civili abbiamo un valore delle opportunità di quasi 180 milioni di euro. Quanto fatturate adesso? Ma l'azienda, diciamo Black Shape, orbita nell'ambito dei... Diciamo, quest'anno chiuderemo con sempre più 200% rispetto all'anno scorso, diciamo che siamo attorno ai 10 milioni, agli 8 milioni, tutto il gruppo oltre 100 milioni. Avete assunto, immagino, e quante persone, e tra l'altro vorrei sapere, lo chiediamo a tutti in questo periodo, se avete cambiato, modificato i contratti o fatto nuove assunzioni negli ultimi mesi. Allora, noi eravamo due persone a gennaio 2010, adesso siamo 120. Ora, a Monopoli. A Monopoli. Tra l'altro, se ho ben capito, lei stava a Parigi e il suo socio, l'ingegner Belviso, stava a Losanna, quindi è un caso di l'École Polytechnique, di un rientro dei cervelli. Sì. Io non so se noi siamo cervelli, sicuramente non quelli lo so che lavorano io, con noi però... sì. E ne sono rientrati tanti, le posso dire tanti, dall'estero. Bene. Tanti pugliesi che stavano fuori, tanti stranieri, il capo della produzione di Black Shape è britannico, di Oxford, abbiamo ragazzi dall'India, dal Sudafrica, dal Brasile, dal Belgio, dall'Olanda, li trova in giro a Monopoli la sera in bicicletta al pub, che parlano inglese e si imparano il monopolitano, insomma questa è una cosa stupenda. Ma anche, molto bello, perché è bello anche assorbire forza lavoro e creare ambienti cosmopoliti da questo punto di vista. Ma avete assunto anche italiani e pugliesi, spero? Tantissimi. Beh, consideri che siamo a Monopoli, quindi immagini lei. No, dico perché Puglia. Va bene prendere. Noi in Puglia abbiamo 1000 dipendenti e i pugliesi saranno 800. In tutto saranno 800. Poi è chiaro che abbiamo uno stabilimento come gruppo, uno stabilimento a Forlì, uno stabilimento a Pisa, due stabilimenti a Pisa, uno stabilimento a Forlì, uno stabilimento a Firenze, insomma abbiamo tante sedi, però uno a Treviso, però diciamo l'headquarter del gruppo è in Puglia. È in Puglia, bravi, noi tifiamo sud sempre quando vediamo casi virtuosi e tifiamo sud mai quando raccontiamo certe cose della pubblica amministrazione locale. Mi dica una cosa, avete avuto problemi di criminalità e burocrazia, nonché le due cose, oddio, delle volte. Soprattutto le assunzioni, prego. Problemi di criminalità mai, problemi di burocrazia come tutti gli italiani, niente di, non più né di meno, però si superano, nel senso uno si rimbocca le maniche e li supera, è più difficile, più faticoso farlo qua che in Australia, e vabbè, dopodiché purtroppo è così e andiamo avanti. Sulle assunzioni ne abbiamo fatte tantissime nel primo trimestre di quest'anno, sia conversioni di vecchi contratti che nuovi contratti. Credo che tutto il gruppo, adesso non voglio dire una castroneria perché non sono il capo del personale, però tutto il gruppo credo che avremo, tra stabilizzazione e nuove assunzioni, avremo fatto un'ottantina. Un'ottantina di nuovi contratti tra nuovi e stabilizzazione, esatto, tra di nuovi vecchi. E conversioni. Sì. Conversioni di cos'è? Una Coco Pro determinati? Ma spesso erano tempi determinati, ma non perché noi abbiamo una tendenza a stabilizzazione del 90%, è solo che in certi casi può essere utile anche, diciamo, per ragioni di flessibilità di organizzazione interna, magari c'erano delle fiere o dei particolari eventi internazionali. Senta, una mia curiosità nel salutarla e ringraziarla, vedo che molti anzi le girano i complimenti, ma a voi come iniziativa, ma le banche poi si sono rifatte vive una volta che l'attività è decollata? Sì, ma anche i fondi. Ah, poi improvvisamente. Tutti si sono rifatti vivi, perché diciamo che salire su una cosa che già funziona è una specialità di questo paese, il problema è metterle in moto le cose, poi quando funzionano sono tutti, anzi si fanno tutti fotografare vicino alla cosa che funziona, ma prima che si mette in moto è dura. Infatti non era scontato, però diciamo siamo stati fortunati che abbiamo incontrato qualcuno che ha creduto in noi. Questo Flaiano diceva che gli italiani sono un popolo che corre in aiuto e in soccorso dei vincitori. Dei vincitori, esattamente. Questa sensazione le posso garantire che è chiara e netta. Poi, per carità, e chiudo, non è che non ci sono quelli che osteggiano, ci sono, e come. Se la strada è in salita, è difficile, noi siamo dei newcomer ed è un paese che non è che è proprio innamorato dei newcomer. Però, insomma, se uno si fa valere, ha le sue energie, le sue idee, la sua determinazione, diciamo che poi chi la dura la vince. No, mi scrivono alcuni, immagino direttori di filiali, non è che le banche possano valutare, dov'è che l'avevo vista, ecco, qualunque tipo di proposta su qualunque tecnologia, mi sembra ovvio. Ho capito, ma allora sì, infatti, perché sta al banco della banca, sta quello che fa la banca retail per il risparmio del pensionato, e non c'è uno che sa analizzare. Quando lei guardi, negli Stati Uniti ci sono fondi di investimento che analizzano addirittura il tipo di branca o il tipo di specializzazione all'interno di una macro specializzazione, per dirle biomedica, ci sono fondi che finanziano solo i bracci biomeccanici robotici, solo braccia, e hanno solo Ma infatti, guardi, quello che si chiede al mondo bancario non è di avere un responsabile di filiale che sappia valutare un progetto su aerei da turismo ultraleggeri in fibra di carbonio, ma che ci sia qualcuno nella struttura bancaria in grado di valutare, come un fondo di private equity, ma con la solidità di una banca, se un progetto è valido o no nei vari campi di appartenenza. Nessuno è tuttologo, infatti la colpa non è del direttore di filiale, la colpa è di una struttura che poi non ha al suo interno delle competenze tali da valutare quei progetti. Non stiamo parlando di tutte le banche, ma se lei ne ha girate una trentina, stiamo parlando Non solo, anche commerciali, non soltanto banche retail. Noi abbiamo girato tutto, mi creda, tutto quello che si poteva girare, tutto. In bocca al lupo a lei, Angelo Petrosillo, a Luciano Belviso e a tutti i vostri dipendenti, in particolar modo quelli che avete preso nella realtà di Monopoli, visti i tassi di disoccupazione che ci sono anche in Puglia. Bravo, grazie e buon fine settimana. Sì, lo so che un fondo di The Venture Capitalist non è una banca retail, però il tema l'avete capito, non giriamoci attorno. Su, allora, così come non è sempre colpa della banca quando non presta soldi, bisogna anche dare le responsabilità alla banca quando non è in grado di valutare i progetti. Allora, se tu non sai valutare i progetti industriali, che fai? Ti compri solo titoli di Stato, obbligazioni corporate a AAA? Comunque. Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Giornata di borsa tutta piattina oggi, meno 0,30% Milano, dopo il recupero di ieri, Parigi meno 0,70%, Francoforte meno 1%, Londra meno 0,20%, l'America meno 0,10%, il traffico e poi un rapido commento, devo dire Autogrill si muove sull'attesa di nuove operazioni straordinarie dopo lo spin-off di World Duty Free fa il 3,43%, Monte dei Paschi invece, dopo che la BCE ha detto che un aumento di capitale non è sufficiente, serve una fusione, perde il 3,60% dopo il traffico. Focus Economia. Allora, Paolo Paronetto, dicevo già io di Monte dei Paschi da un lato e Autogrid dall'altro, il resto della giornata che ha visto anche in rialzo A2A, i diffusi conti, l'utile del trimestre è balzato del 46% a 117 milioni, il debito a 3,3 miliardi, quindi A2A e Fiat. Sì, per quanto riguarda A2A, come dicevi tu, è la reazione ai risultati della trimestrale che sono stati migliori delle attese e degli analisti, soprattutto l'utile appunto salito del 46% a 117 milioni, quindi gli investitori naturalmente hanno premiato il titolo. Per quanto riguarda Fiat Chrysler, diciamo che per gran parte della giornata è stata ben intonata insieme a tutto il settore auto europeo, grazie soprattutto a un report di Goldman Sachs che ha alzato il giudizio su tutto il comparto. Sul finale tuttavia le quotazioni si sono sgonfiate, Fiat Chrysler ha chiuso in rialzo di un marginale 0,15% e così gran parte dei titoli europei che hanno chiuso sulla parità o addirittura sul finale sono scivolati in rosso. E poi dicevamo di salire in pregilo, anche qui c'è una trimestrale, no? Sì, esattamente, una trimestrale con ricavi in crescita, un utile raddoppiato e il titolo ne ha beneficiato in borsa, è stato tra i migliori per tutta la seduta, sul finale ha chiuso in rialzo del 3,91% sopra i 4 euro per azione. Tra chi è andato bene, oltre ai titoli citati, Buzzi Unicem più 2,20, Moncler più 2, Azimut più 2, Prysmian, l'ex Pirelli Cavi più 1,60, Terna che ha smentito un coinvolgimento nel progetto della banda larga, in realtà a nostro avviso prima l'Enel, poi Terna, cioè una tattica del governo per spiegare, parlare a Nuora perché suocera Telecom intenda. Comunque Terna smentisce più 1,20%, Snam più 1, Intesa San Paolo più 1, Banca Popolare di Milano più 1%, tra chi ha ceduto invece anche Saipem meno 2,80, Tenaris meno 2,40, Campari meno 1,80, Eni perde l'1,70, ST Microelectronics meno 1,30 come Finmeccanica ed Enel, TOZ meno 1%, in assoluto il miglior titolo Giorgio Fedon più 9,40, poi Geox più 7,5, Digital Brothers più 5,60, peggior titolo Danieli meno 7, poi Elettra Investimenti meno 6,40%. Grazie e buon fine settimana a Paolo Paronetto e ai colleghi di Radio Cor Il Sole 24 Ore. No need to love and cry. If you live in an economy where the value of sharing is undermined. Se si vive in un'economia dove il valore della condivisione è messo a repentaglio, io credo che si sia in pericolo non soltanto di eventuali perdite di benessere e vite umane, ma anche in pericolo di perdere certe performance economiche e la possibilità di incrementare le aspettative di vita per la popolazione. Quindi è importante vedere quanto cibo può essere prodotto anche grazie alla tecnologia, far sì che l'economia possa generare reddito, perché la disoccupazione è uno dei motivi della fame nel mondo. E questo significa che le carestie potrebbero essere fermate se vi fosse piena occupazione. Le carestie sono facili da superare. Si tratta di una grave carenza di cibo che crea questa situazione. E per arrivarci bisogna creare occupazione, cosa che non è difficile da fare, sempre che non ci sia qualcuno che dica che devi tagliare la spesa pubblica, che non ci può essere un'espansione della spesa pubblica a prescindere dal costo a livello umano. Dobbiamo quindi vedere come funziona il mercato, quali sono le cose positive che fa. A volte c'è l'idea di non fidarsi del mercato e di far gestire il cibo al governo. Lo abbiamo visto in molti stati africani, con risultati catastrofici. una volta che si genera il reddito. Io credo che il settore privato sia molto più efficiente nel far spostare cibo da un punto all'altro, piuttosto che i sequestri da parte del governo di cibo, camion e mezzi di trasporto. Questo perché lo Stato di solito si occupa di altro. And vehicles in order to move, which it's not used to doing. Quello che avete appena ascoltato è un passaggio della Lectio Magistralis che ha tenuto il premio Nobel all'economia Amartya Sen oggi a Milano, la Fondazione Edison in Foro Bonaparte, come primo ciclo degli incontri che Edison organizza con grandi autori del pensiero economico contemporaneo in occasione dell'Expo. Il curatore scientifico e vicepresidente direttore della Fondazione Edison, nonché editorialista del Sole 24 Ore e docente di economia industriale della Cattolica di Milano, Marco Fortis, buonasera. Buonasera. Mi è piaciuto molto questo passaggio, poi avremo anche uno dei nostri reportage con tutte le parti principali dell'intervento di Sen, perché Sen dice due cose. Il settore privato funziona quando c'è da redistribuire, parlava di carestia, di alimentazione, di cibo, meglio che non la gestione del pubblico dello Stato, l'abbiamo visto in Africa, però attenzione, e quindi non era un discorso tipicamente via i privati, lasciamo tutto al pubblico, però era anche un ragionamento contro dei tetti ragionevoli di spesa pubblica, e qua un po' le orecchie fischiavano al modello europeo. Non so se sia d'accordo Fortis, lo vorrei prima su questo e poi gli chiederò anche un commento sul PIL italiano, prego. Beh, sicuramente l'osservazione del premio Nobel mi sembra pertinente. Egli ha fatto oggi una lezione di altissimo livello dove giustamente ha indicato che lo Stato, il settore pubblico, mette i pilastri, ma dentro i pilastri poi sta al settore privato dare la maggiore efficienza. Diciamo che lui ha portato l'attenzione su quelli che oggi non sono più, come si pensava una volta, i limiti fisici dello sviluppo, cioè che manchino le risorse, che manchino le tecnologie, che manchino le produzioni, ma piuttosto su quelli che sono i limiti di accesso alle risorse, che spesso sono generati da una cattiva gestione della politica economica e dalle disuguaglianze. Questo mi sembra il suo messaggio principale. Professor Fortis, mi sento un po' Pindaro, però perché sto per fare un volo che c'entra poco, ma poi arriveremo ospite quando l'Istat ci fornirà nel dettaglio le voci che hanno contribuito alla crescita del PIL, la più alta da 4 anni, l'uscita dalla recessione tecnica, i primi 3 mesi di quest'anno, più 0,3%. Ma visto che lei, come sempre ricordo, conosce nel dettaglio quelli che sono gli apporti di export e quindi anche la capacità di competere dei vari distretti e settori produttivi di questo paese, ci siamo, nel senso che i segnali deboli, ancora non percepiti in buona parte del territorio, ma sono tutti positivi, o lei è ancora prudente? Diciamo che il peggio è certamente passato. Questa è stata una crisi gravissima che avrà strascichi lunghi, soprattutto sull'occupazione, che faticherà a riprendere. Di questo bisogna essere assolutamente consapevoli. Ma io credo che certamente si sia svoltato, non solo per il dato del primo trimestre uscito l'altro giorno, ma anche perché già prima i dati dell'Istat disaggregati del PIL, per adesso del primo trimestre abbiamo soltanto il dato aggregato e sì, alcune indicazioni qualitative, ma i dati trimestrali diffusi a fine marzo sui settori dell'economia ci dicevano già che i consumi erano ripartiti dal secondo trimestre, che crescevano tutti i trimestri tendenzialmente dello 0,5%. Questa è stata la grande svolta, che sicuramente si è accentuata nel primo trimestre, se no non si spiegherebbe anche l'accelerazione del dato congiunturale. L'Istat ci ha detto che ancor più che l'export, che pure è stato favorito dall'euro debole, il contributo maggiore alla crescita del primo trimestre è venuto dalla domanda interna. Questa è la grande novità, che associata alle previsioni favorevoli anche di istituti che segnalano le aspettative delle imprese, tipo Markit, che ci ha già detto che c'è stato un mese di aprile molto forte per la nostra economia, sono molto incoraggianti, visto che addirittura si pensava che il secondo e il terzo trimestre avrebbero dovuto essere quelli più forti dell'anno. Se già il primo è stato buono e ancora senza il contributo dell'Expo, io credo che si possa ragionevolmente sperare non di fare miracoli, ma certamente di mettere finalmente una parola fine alla caduta del PIL. Questa è la cosa più importante. Quindi lo 0,7 anche lei ritiene come crescita nell'anno sia raggiungibile. Lo dico pur sapendo, l'abbiamo spiegato quando abbiamo commentato il dato, che quando tu fai uno 0,3 non te ne accorgi, nel senso che è un dato aggregato, sono un po' ripartiti i consumi oltre che l'export, molti ascoltatori scrivono qua siamo ancora in piena crisi, non è vero che le cose sono migliorate, è tutto giusto, nel senso che i dati aggregati purtroppo hanno questo livello di imprecisione, sono aggregati, fanno una media. Quando usciranno poi le singole voci andremo a vedere che cosa ha più contribuito. Sappiamo che i servizi sono rimasti fermi, bene, meglio è andato il fronte agricoltura e industria, ma ripeto, aspettiamo i dati disaggregati dell'Istat. Leggo assieme a lei, nel salutarla, professor Fortis, l'agenzia, eccola qua, Standard & Poor's ha lasciato invariato il voto sull'Italia a BBB-, che è un gradino sopra il livello junk, però ha mantenuto le prospettive stabili, quindi insomma tutto sommato l'abbiamo sfangata anche sto giro con Standard & Poor's. Grazie per ora a Marco Fortis e da Sebastiano Barisoni un ringraziamento anche a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana. L'augurio a voi di un buon fine settimana, soprattutto per chi lo trascorrerà lavorando. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.